dirmi dove è il cimitero delle macchine. L'hanno portata via solo perché era parcheggiata in un passo carrabile. Era la mia Dufy, non era vecchia, era del 56, con i sedili in pelle verniciata giallo ocra. Ma tu guarda i vigili, che trova sempre il modo di rifarsi sulle macchine. E proprio sulla mia, e proprio oggi che andavamo al mare con la Lella e la Mariangela, che cosa gli racconti? Che l'ho venduto e che ho comprato una cosa, con i sedili in pelle, con le barre, le cinture, ma che palle, donne sole in città, donne sole senza macchina, la provincia a noi ci sta, stretta, qui al mare ci si va lo stesso, con la bicicletta. Straccio di marito e col problema della mattina. Prima c'era lui, mi amava molto prima di scappare con la Monica. Porco, io con la mia Dufy, non siamo vecchi, siamo del 56. È solo questa vita e poi la gente, la stessa gente che fatica. Donne sole in città, senza macchina, la provincia a noi ci sta, stretta, qui al mare ci si va.